Zolt. Fulminati in azienda. Pronto? Pronto? Pronto Marco? Pronto Silvia, cara, tesoro mio, come stai? Sì tesoro, cara, risparmiateli questi orpelli. Guarda che lo so che quando mi parli così è perché sei davanti a qualcuno dei tuoi. Dai, fammi il favore, mandali via che ti devo parlare. Mi sono spiegata? Anima mia, ma cosa mi dici? Sei incazzata, secondo me su muoio. Marco, mi hai capito? Guarda che non scherzo. Ti do tempo 3 minuti, 3 per mandare via centrifuga e chi c'è, la font. Ecco, mandali via e richiamami, intesi? Certo, certo, allora ci sentiamo dopo, luce dei miei occhi. Va bene, anch'io tanto, tanto, tantissimo. Bene, dunque, dove eravamo rimasti? Sì, andiamo dritti al sodo, che oggi ho una montagna di lavoro da fare. Allora, a che punto siamo con il nuovo sistema di allarme? Avete individuato il fornitore? Veramente stanno a trattare con un paio. No, veramente c'è una ditta che pretende di installare nei corridoi degli antiestetici affarini che danno una lucetta rossa, che non si intonano affatto al colore delle pareti. Sì, ma quelli coordinati ci costano il doppio. Marco, falla ragionare, dice tu. Basta, basta, mi sembrate due bambine, sono stufo di sedare le vostre litigate, di fare l'arbitro. Voi devo sempre spiegarvi le cose, mica sono vostro padre, io dovete crescere. Per una volta, cavatevela da soli, dai, fuori tutti che ho un sacco di cose da fare, su, mazza, Andersen. Oh, mi sa che tira bruttaria, eh? Pronto? Quante volte ti ho detto di non chiamarmi in ufficio, che ci vediamo a casa e poi parliamo, che cosa c'è di tanto urgente, eh? Ma si sente che sei solo, eh? Vabbè, comunque, non ti faccio perdere tempo prezioso. Volevo solo ricordarti che visto che oggi è la festa del papà, devi assolutamente venire a casa. Quest'anno non esiste, quest'anno non hai scuse. Ma lo sai che cosa significa per i bambini la festa del papà? Certo che lo so, significa che è la mia festa e quindi faccio quello che voglio. E guarda che i tuoi figli stanno preparando i biglietti con disegnato il loro papà che li tiene per mano. Peccato che il papà ha i capelli neri, gli occhi a mandorla e la pelle gialla. Ma come la pelle gialla? Marco, pensano che il loro padre sia il fruttivendolo. No, ma guarda che sono bellissime. No, no, non si può fare. Abbiamo un budget da rispettare. I sensori color prugna sono troppo cari. Sì. Marta, scusami, ma Centri ha ragione. Qui la priorità è la sicurezza. Un sistema di allarme deve proteggere le persone e le cose. Sì, ma chi ci protegge dal cattivo gusto? Se continuiamo di questo passo, finiremo per avere un look incoerente con l'immagine della corporate. Non capite? Come consulente consiglio di tenere conto della sicurezza senza tralasciare l'impatto dell'apparato dal punto di vista visivo. Appunto, visivo. Bravissimo, è proprio quello che volevo dire dal punto di vista. E dimmi consulente, come la risolviamo? Installiamo quello più bello che costa il doppio del budget o quello antiestetico che però è l'unico che se potevamo permettere? Ci sono, facciamo un mix. D'altra parte, come direbbe sul pezzo, in media stat virtus. E che sarebbe a dire, scusa? Ma come? Prendi un po' di uno, un po' dell'altro in base alla tendenza fusion. Uè, ma cos'è sta storia, Centri? Ma che cos'è? Sono Marco sul pezzo, voglio uscire, hai capito o no? Ma siamo rimasti chiusi dentro. Marco, è tutto chiuso, è il nuovo sistema d'allarme, abbiamo scelto il Fusion. Stiamo provando il collaudo e mo stiamo dentro. Ma come stiamo dentro, stiamo dentro? Devo andare a casa, che è la festa del papà. Adesso chi è che glielo dice a mia moglie? Dai che la chiamo, stai zitto un attimo, dai. Pronto? Pronto Silvia, ciao. Amore mio, niente, c'è stata un'emergenza, veramente. No, te l'avevo detto che questa volta non potevi farlo. Adesso glielo dici tu ai tuoi figli, no. Parlaci tu. Dai Silvia, non è corretto. Silvia, pronto, pronto Silvia. Pronto. Oh amore mio bello, pronto. Di... Ciao amore mio bello di papà, senti. Sì, papà ti deve dire solo una cosa. E sai il bigliettino che mi hai preparato oggi? Sì, ecco, me lo dai domani. Sì, perché il papà lavora con degli sciocchini, va bene? Ciao amore mio bello. Dei deficienti siete, dei deficienti. Zot è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z 2O 1T.